in primo piano. Il caos elettorale, vale a dire il TAR, che non ha riammesso le liste del PDL a Roma. E dunque che succede? Cercheremo di orientarci anche oggi nella rassegna stampa per cercare di farvi capire qualcosa in più di questo caos clamoroso. Il TAR non riammette la lista PDL a Roma, questo è il titolo appunto del Corriere della Sera. Per Repubblica il TAR boccia il decreto salva liste. Per La Stampa il PDL fuori gioco a Roma. Così il Messaggero: Roma no del TAR al ricorso PDL. Il Giornale riassume un po' il clima: manicomio Italia. Per Libero, vaffa dei giudici al PDL. Per l'Unità, bocciati, c'è un cappello con le orecchie d'asino, come si metteva a Pinocchio, no? Bocciati, ovviamente bocciati, è riferito un po' al PDL, un po' al decreto salvaliste. Per Il Fatto, che domenica aveva titolato con un gigantesco ladri, oggi titola ladri e ignoranti, il decreto del Premier affonda davanti al TAR. Allora, che succede? Leggiamo Massimo Franco in prima pagina del Corriere della Sera, l'editoriale, pasticcio parte seconda. La sensazione sconfortante è che il decreto sulle liste elettorali alla fine rischi di non servire a nulla. Finora non ha salvato quella del PDL in provincia di Roma e le altre due, di Roberto Formigoni in Lombardia e di Renata Polverini nel Lazio, sono state riammesse comunque dalla magistratura dopo i ricorsi. Insomma, la forzatura voluta dal centrodestra si è scontrata con il primato della legge regionale. La decisione presa ieri dal Tribunale Amministrativo del Lazio complica la strategia di Palazzo Chigi. Insomma, scrive Massimo Franco, rimane la somma di pasticci giuridici e politici che la maggioranza è riuscita ad accumulare nella sua fretta di rimediare agli errori. L'obiettivo di far votare tutti era e rimane giusto, ma il modo in cui Silvio Berlusconi e la sua coalizione hanno cercato di perseguirlo si è rivelato subito così segnato dall'affanno di diventare scomposto. Cioè, il tema è questo: il TAR ha detto il decreto salvaliste non va bene perché si scontra con la legge regionale. Le elezioni regionali sono stabilite dai criteri della legge regionale già in vigore del Lazio. La materia elettorale è disciplinata dunque dalla legge regionale. Cosa succede? Che effettivamente al momento il cosiddetto decreto salvaliste, quello di decreto interpretativo, per il momento non è servito a nulla, nel senso che Formigoni è rientrato con il suo listino in Lombardia, ma il TAR ha deciso prima che venisse, che entrasse in vigore il decreto. Così la Polverini è stata riammessa senza che ci fosse bisogno del decreto, e invece il decreto in questo caso è stato bocciato dal TAR per la riammissione delle liste del PDL nella provincia di Roma. Insomma, al momento, come scrive Massimo Franco, non è servito a nulla e dunque, insomma, pasticcio su pasticcio. Infatti, il Corriere della Sera, sconcerto del Premier, a pagina 3, aumenta il timore di perdere consensi, era sicuro di aver risolto il problema, e invece si racconta di questa doccia fredda. Anche se sempre il Corriere della Sera, pagina 5, che cosa scrive? Scrive: il Viminale pronto a rinviare il voto nel Lazio. Questa è una delle ipotesi che a questo punto si fa strada più delle altre, cioè quello della possibilità di un rinvio del voto almeno nella regione Lazio. Non possiamo accettare la sopraffazione, tuona Ignazio La Russa, citato virgolettato dal Corriere. Allora si agirà su due fronti per tentare di riammettere la lista PDL del Polverini. Il primo è il ricorso al Consiglio di Stato, che è già stato presentato, la seconda, diciamo, il secondo grado rispetto al TAR. Il secondo è più una speranza che una mossa, e cioè che il verdetto che arriverà oggi sulla nuova presentazione delle liste del PDL alla Commissione Elettorale del Lazio si riveli favorevole, dunque venga accettato, perché sono state ripresentate le liste alla Commissione Elettorale del Lazio. Insomma, capite che è un gran casino, insomma, questa è la verità. Tra l'altro, alle 9 Oscar Giannino ne parlerà per un'ora, magari cercherà di farci capire un po' di più tutti gli scenari, no? Quindi vi rimando a Oscar Giannino alle 9 anche per approfondire. Vi segnalo solo in conclusione di questo tema alcune cose, cioè che Carlo Azeglio Ciampi, l'ex capo di Stato, fa due colloqui Il primo è con Repubblica, con Massimo Giannini, e l'altro è con Marzio Breda sul Corriere della Sera. Cosa dice? Diciamo, riassumo i due interventi del capo dello Stato, l'ex capo dello Stato. Su Repubblica il titolo è questo: è il massacro delle istituzioni, elezioni a rischio annullamento. Intanto la premessa, Ciampi, alla classica domanda: lei avrebbe firmato se fosse stato al Quirinale? Non mi piace mai giudicare per periodi ipotetici dell'irrealtà. Allo stesso tempo, dice Ciampi, trovo sbagliato dire adesso «io avrei fatto, io avrei detto». Credo però che la soluzione migliore sarebbe stata quella di rinviare la data delle elezioni, come ha detto ieri Scalfaro al Corriere, ma per fare questo sarebbe stata necessaria una volontà politica che palesemente nella maggioranza è mancata. Ma soprattutto credo sarebbe stato necessario che il governo riconoscesse pubblicamente di aver commesso un grave errore. Questo a Repubblica. Al Corriere invece Ciampi dice: mi ricordo in questo momento non so perché, cita la figura di Nello Rosselli, dal nome del foglio clandestino che circolava a Firenze durante il fascismo, ideato da Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, ma soprattutto Nello e Carlo Rosselli, assassinati nel 1937 da una banda di francesi prezzolati da Mussolini. Quelle idee mi hanno segnato per sempre e nei momenti bui le rievoco. Insomma, Marzio Breda dice: scusi, perché è così scoraggiato da rievocare una scena del genere, insomma, che richiama al fascismo? Sta pensando alle tensioni sul decreto salvaliste? Questo è un esempio. Non mi chieda però se io avrei firmato la legge, ancora Ciampi dice. Non voglio dare né consigli né pagelle di buona o cattiva condotta a nessuno. Certo, però, dice, io non ho mai mollato rispetto a ciò che mi dettavano la Costituzione e la mia coscienza. Ora, comunque, mi pare che si rischi di andare verso una sfida permanente e il responso del TAR del Lazio complica tutto. Lo scenario, insomma, è di grande tensione. Vediamo per esempio che cosa scrive anche a pagina 3. Io, guardate, sono paginate di giornali, seleziono quello che secondo me dà un po' spunti di riflessione, ma trovate editoriali ovunque, commenti, cronache, eccetera. Il secolo XIX, pagina 3, Matteo Indice, Marco Menduni, il quotidiano di Genova e della Liguria prevalentemente, intervistano Andrea Pescino, fanno subito una premessa, fascistissimo, fascista, controverso per sua stessa missione, uno che però dichiara: abbiamo venduto anche in questa tornata elettorale almeno 7.000 voti, cioè 7.000 liste, non voti, scusate, 7.000 firme per presentare le liste, firme false ai partiti, c'è un vero mercato. Verrà ascoltato presto dalla Digos questo Pescino, che dice: in Liguria almeno a questa stessa tornata elettorale abbiamo venduto 7.000 firme false, ovviamente, per la presentazione delle liste a entrambi gli schieramenti, i due poli. Lo abbiamo fatto anche questa volta, è un metodo per finanziarsi soprattutto per l'estrema destra, lo ha sempre fatto in tutta Italia, un modo per autofinanziarsi, è un sistema consolidato. Insomma, è incredibile, cioè partiti che hanno milioni di voti e che, stando almeno ai pasticci e alle ricostruzioni, dovrebbero, o meno, si comprerebbero delle firme anche dei personaggi un po' inquietanti. Sempre in base alle firme, leggo la prima pagina del giornale che pubblica che cosa? Firme in Lombardia, ecco le prove della vergogna. Sono tutte le firme presentate proprio in grafica, dal centrodestra e dal centrosinistra ci sono delle foto di schede presentate, schede che sembrano assolutamente identiche, cioè in alcune del centrodestra, per esempio, manca il timbro tondo famoso e allora per questo sono state annullate. Nella lista per Penati pare mancherebbe anche qui il timbro tondo, ma vengono accettate. Così come le firme prive di qualifica dell'autenticatore, 23 annullate per il centrodestra, 23 accettate, seppure prive della firma dell'autenticatore, anche invece per il centrosinistra. Insomma, il giornale a pagina 2, firme in Lombardia, ecco la truffa anti-Formigoni, vi mostriamo le prove. E poi c'è tutto l'articolo che dice: vedete, sono stati usati due pesi e due misure per le firme. Mi fermo qui, per carità. Approfondite poi, approfondirete alle 9 con Oscar Giannino, sempre che anche lui con la sua chiarezza proverbiale riuscirà in un'ora a districarsi in questa materia complicata, ma potrete anche intervenire, fare domande, se qualcuno ci capisce qualcosa. Di certo una parola fine in qualche modo verrà messa in questa vicenda, che è un caos incredibile e che oggi avrà degli sviluppi, ovviamente, sui quali vi terremo aggiornati per quanto riusciremo e per quanto sarà possibile. Allora, prendo la pagina estera, io voglio segnalare un po' dovunque c'è quello che sta succedendo, soprattutto in Nigeria, dove ci sono stati, abbiamo sentito anche la nostra Valentina Furlanetto nel GR, dei massacri. In prima pagina del Sole 24 Ore, Davide Rondoni, lo scrittore, La strage di cristiani, scrive: Nigeria, chi uccide in nome di Dio, uccide Dio e gli uomini. Ogni volta che si uccide in nome di Dio, si sta uccidendo Dio. Quel che accade in Nigeria, dove solo ieri sono stati uccisi quasi 300 cristiani nel sud del paese, la chiamano guerra di religione. No, è una guerra di impietà. È la tragica ripetizione di una mostruosa impietà, usare il nome di Dio per colpire l'altro, per offendere l'altro, per annullare e violentare l'altro. Accade lontano, ma non abbastanza per non inorridire. In questa ripetizione di scene, di violenze già viste, ci viene dentro una strana rabbia sorda. Quasi come se in quel paese martoriato da guerra e interessi potenti andasse in scena la medesima impietà di cui siamo stati capaci noi, dico tra noi europei, in tempi lontani della storia e in tempi vicini. È come se rivedessimo in quell'orrore il nostro stesso orrore, la nostra stessa impietà, usare Dio per colpire l'altro uomo, usare il nome di Dio per farlo fuori, uccidendo Dio. Doppia impietà, quella dell'uccisione dell'uomo e dell'uccisione di Dio. Poi continua il commento di Davide Rondoni, anche se c'è da dire che padre Giulio Albanese, uno che quelle zone le conosce molto bene, un profondo conoscitore dell'Africa, oggi in un editoriale in prima pagina di Avvenire e poi in un'intervista al giornale dice: attenzione a parlare di guerra di religione. Per esempio, nell'intervista al giornale, padre Giulio Albanese dice: le stragi in Nigeria non è una guerra di religione. Siamo in Nigeria, l'1% della popolazione detiene il 75% della ricchezza nazionale e quell'1% è composto sia da cristiani che da musulmani. E poi attenzione, non sono 500 cristiani morti, meglio dire 500 morti ammazzati. Non sappiamo se tra le vittime vi sono anche alcuni assalitori. E poi questa volta le vittime sono cristiane, ma l'ultima volta erano state musulmane, massacrati da cristiani appartenenti alle sette pseudo-evangeliche. Dunque, penso proprio che non si possa dire di una lotta tra cristiani e musulmani. Bisogna essere molto cauti. È un inferno, ma è un intreccio. Molte volte gli attacchi e massacri sono studiati a tavolino. Sono più radici e ragioni etniche, dice padre Giulio Albanese. Certo, quello che sta succedendo in Nigeria è davvero un qualcosa di terribile. Un fondo per Eurolandia, questo è il titolo della prima pagina del Sole 24 Ore. Di cosa si parla? Del fatto che Bruxelles stia studiando uno strumento per stabilizzare la crisi, le crisi paese. Ovviamente si guarda soprattutto alla Grecia e prende corpo l'idea di creare un fondo monetario europeo proprio per aiutare la Grecia. Questo aggirando il divieto di salvataggio che è previsto nel trattato di Maastricht. Ieri già ne hanno parlato, come scrive Adriana Cerretelli a pagina 3 a Bruxelles, poi si deciderà, ci sarà oggi un dibattito preliminare della Commissione europea, la decisione verrà presa entro giugno. Certo, il Fondo Monetario per l'Europa è quello a cui starebbe lavorando appunto Bruxelles, l'ipotesi. Mentre sempre per quel che riguarda la situazione finanziaria, ieri ha parlato, o meglio rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha detto qualcosa di interessante il governatore di Banca Italia, Mario Draghi. Vale a dire, ha detto: attenzione, in arrivo ci saranno le regole sul credit default swaps. Il mercato dei credit default swaps va incontro a un processo di regolamentazione. Mario Draghi l'ha fatto capire, già scrive il Sole 24 Ore, mentre la Germania e la Francia stanno già mettendo a punto una serie di proposte appunto per limitare il fenomeno della speculazione finanziaria. Draghi, rispondendo a una domanda di un giornalista, parlando insomma di quello che si potrebbe fare, ha detto: c'è un crescente disagio nei confronti appunto dei credit default swaps, sia che essi riguardino i governi, sia che si applichino a banche o imprese. Infatti, questo tipo di scommesse non sono finalizzate alla copertura di un rischio, ma sono, per così dire, nude. Non servono cioè ad assicurare la proprietà di un asset. Questo modo di scommettere, ha spiegato Draghi, ha delle implicazioni sistemiche, di conseguenza non piace ai governi. Insomma, questo fa capire che un qualche tipo di regolamento, un qualche tipo di nuova limitazione, un certo modo di una stretta sui, su questi strumenti va fatta. Draghi parlava in qualità più che di Banca Italia, del presidente del Financial Stability Forum. Insomma, diciamo che questa è la questione finanziaria, mentre io voglio segnalare, per quel che riguarda la cronaca, perché è il nostro sondaggio di oggi, la vicenda di Renato Valanzasca. Renato Valanzasca, sapete, protagonista, criminale, autore di diversi omicidi, rapine, sequestri di persone nella Milano, ma non solo, nell'Italia, anni 70, 4 ergastoli da scontare, 260 anni, non uscirà mai di carcere, non ha ottenuto neppure la semilibertà, non è una semilibertà, ma il permesso da ieri, di uscire di carcere di giorno alle 7:30 del mattino, andare a lavorare e poi rientrare alle 19. Oggi è pieno di commenti sui giornali, qualcuno addirittura il quotidiano nazionale, Il Giorno meglio, io ho l'edizione di Milano, ci apre in prima pagina, riecco il bel René, mette a confronto due foto, quella del bel René, così era soprannominato appunto, e quella di oggi, sicuramente un uomo più attempato, diverso. Valanzasca, scrive invece Mario Cervi sul giornale, se 40 anni di cella sono pochi. Mario Cervi, uno sempre stato molto duro, per esempio, che si è detto molto indignato per la vicenda di Erika e Omar, oggi invece dice, ecco qui un uomo, una storia per la quale la giustizia ha fatto il suo corso. Ha preso 4 ergastoli, è fuggito varie volte, ma lo Stato è andato sempre a riprenderlo. Abbiamo visto René Valanzasca, che dopo 40 anni di detenzione deve ancora dormire in cella, mentre Erika può passeggiare tranquilla, se le va anche per le strade di Novi Ligure. Non è vero, ma insomma tra un paio d'anni sarà così. E Omar, che presto avrà del tutto saldato il suo conto con la giustizia, chiede di essere lasciato in pace. So che la giustizia non deve essere confusa con vendetta, che la pena deve essere rieducativa e non afflittiva, ma una qualche proporzione tra delitto e castigo deve pur esserci. Per il bel René dobbiamo riconoscere che c'è stata e c'è. Onore al cittadino Valanzasca, scrive Mario Cervi. C'è anche invece sulla Stampa un'intervista ad Achille Serra, l'ex, insomma, oggi senatore, ex questore, ex capo della Mobile, colui che l'ha sfidato, l'ha arrestato anche, Renato Valanzasca, negli anni 70, e che dice: l'ho inseguito per una vita, ora abbiamo davvero vinto. Voi che ne pensate? Secondo voi è giusto che Valanzasca abbia questa opportunità di uscire? Oppure siete molto, molto duri? Insomma, non dovrebbe neanche uscire di carcere di giorno per andare a lavorare. Dovete votare su radio24.it. Bianco o nero. Poi ne parleremo alle 8:30. Chiudo la citazione della Gazzetta dello Sport. Speriamo che la Fiorentina stasera ce la faccia. L'urlo di Gila, devono recuperare dal 2-1 vergognoso, tra l'altro con un gol in fuorigioco solare preso a Monaco col Bayern. Ma la Gazzetta dello Sport ve la segnalo solo perché è un'intervista esclusiva a Berlusconi, in qualità ovviamente di presidente del Milan. Digno, pensaci tu, pagina 2 e 3, voglio un Milan indiavolato. Berlusconi, c'è un casino elettorale in corso, ma ha fatto un'intervista parlando di calcio sulla Gazzetta dello Sport, perché domani il Milan è impegnato a Manchester e ovviamente speriamo che vinca e trionfi, e questo è un mio augurio personale. Allora, ci fermiamo.